Una lettera di Patrizio venne recapitata da un messo del monastero benedettino il giorno dopo, mentre Matilde e la scorta toscana si preparavano a partire. Scritta in codice, era un appello disperato che necessitava di essere decifrato. Matilde si sedette ed estrapolò il messaggio, ricordando esattamente la chiave dove le lettere venivano convertite in numeri e poi di nuovo in lettere per creare un messaggio coerente. Mia cara sorella, il gobbo ha assediato Orval e confiscato il libro rosso. Anche se le copie completate per fortuna sono al sicuro nello scriptorium, è riuscito a prendere l'originale insieme all'arca della nuova alleanza. Non sa bene di che cosa si tratti, ma sa che sono oggetti preziosi e importanti per te e li userà per costringerti a tornare. Io sono al sicuro, come pure i miei confratelli, ma sono disperato per le nostre scritture più sacre. Credo si trovino nel palazzo di Verdun. Ti prego, indicami in quanto tuo fratello, quale condotta tenere? Sappi che farò tutto ciò che vuoi perché ho la certezza che sei in armonia con ciò che Dio desidera per la nostra gente. Prego per te regolarmente e desidero soltanto che tu sia al sicuro e felice. Con affetto, Fra Patrizio. Matilde era furente e anche sbalordita. Non avrebbe mai pensato che Goffredo la rivolesse dopo quello che era successo. Di certo non aveva previsto che l'avrebbe ricattata in quel modo. Chiese a Giselda carta e inchiostro, quindi cominciò a scrivere la sua risposta sia a Patrizio sia al gobbo. Il vantaggio di avere un'istruzione e un intelletto esemplari era che Matilde non doveva mai aspettare uno scrivano, si occupava da sé della maggior parte della corrispondenza e lo faceva con immenso piacere, in particolare quando aveva la possibilità di esprimersi come quel giorno. La prima missiva fu catartica, iniettata. Le parole di indignazione al duca Goffredo di Lorena da parte della contessa Matilde di Canossa. In nome del popolo toscano e della nobile famiglia di Canossa, pretendo l'immediata restituzione dei nostri oggetti di culto più sacri che sono stati confiscati illegalmente dalla casa di Lorena. Nello specifico, il libro rosso, il mio volume più prezioso, deve essere restituito all'istante ai benedetti fratelli di Orval affinché sia custodito nel santuario costruito per ospitarlo. Se il libro rosso non mi verrà restituito subito, la casa di Toscana dichiarerà una guerra giusta e santa alla casa di Lorena. Guiderò tutti i guerrieri del nord Italia affinché marcino su Stenè e recuperino gli oggetti sacri con la forza, se necessario. Concluse la lettera con i tratti decisi della sua firma spavalda. Matilde, che è ciò che è per grazia divina. Inserita in una croce e seguita dal simbolo dei pesci e da quello dell'ariete, che erano diventati la sua firma in quanto figlia cristiana della profezia dell'equinozio. Non avrebbe più recitato la farsa, né per il gobbo né per chiunque altro, avrebbe affermato la piena gloria della sua identità e si sarebbe ripresa a ciò che le spettava di diritto e che era sotto la sua tutela. Da quel giorno Matilde avrebbe usato quell'affermazione radicale come firma per indicare che tutto ciò che aveva lo meritava per grazia di Dio in quanto sua figlia eletta. Non le serviva nessun altro riconoscimento né da un marito né da un re per rivendicare e conservare tutto quello che le era stato dato. Il secondo era un messaggio per Patrizio in cui lo informava che Con sarebbe andato a recapitare di persona la lettera a Goffredo e a negoziare le condizioni in suo nome. Il fallimento non era un'opzione da considerare in quella missione e non permise mai a quel pensiero di farsi strada nella sua mente. Assicurò a Patrizio che l'arca e il suo prezioso contenuto, il libro rosso, sarebbero ritornati in suo possesso al più presto. Dopodiché li avrebbe portati al di là delle Alpi, nella loro vera casa, Lucca. Goffredo di Lorena fu assai intimidito dal gigante celtico che minacciava guerra per conto di Matilde, ma in suo onore va detto che si rifiutò di darlo a vedere, pretese di ritorno la moglie in cambio degli oggetti che aveva confiscato Orval. Con gli rise in faccia, ricordando al gobbo che la sua serva, scelta personalmente da lui, aveva tentato di assassinare Matilde mentre giaceva indifesa a letto dopo aver vissuto la più grave delle tragedie, la perdita di un figlio. Usò di proposito il termine assassinare anziché uccidere, perché le connotazioni politiche dell'episodio indebolivano la posizione legale di Goffredo. Il duca era intrappolato in un pantano che aveva creato lui stesso e lo sapeva. Con riferì il resto delle condizioni. Le richieste di Matilde non erano del tutto irragionevoli, poiché al momento voleva raggiungere due obiettivi primari: farsi restituire i beni più sacri dell'ordine e uscire indisturbata dalla Lorena. Una volta al sicuro in Toscana, con i suoi consiglieri e sua madre, prima fra tutti, si sarebbe occupata della sua situazione matrimoniale. Sperava che Goffredo accettasse di fare subito e senza troppe storie quello che gli stava chiedendo. E non stava proponendo di divorziare, anche se lo avrebbe fatto, dato che il documento prematrimoniale le dava il potere legale di divorziare per crudeltà. Lui avrebbe mantenuto i suoi titoli in Toscana, a patto che ciò non interferisse con l'amministrazione delle sue terre, il che includeva appoggiare Enrico da uno qualunque dei suoi territori. Aveva persino detto a Con di far credere al gobbo che una volta guarita avrebbe considerato l'ipotesi di ritornare nel loro letto coniugale se lui avesse dimostrato buona fede in quel momento difficile restituendole ciò che le apparteneva. L'inferno si sarebbe congelato e le Alpi si sarebbero sgretolate prima che avesse permesso a Goffredo di toccarla un'altra volta, ma sperava che lui fosse troppo stupido per capirlo. L'ossessione erotica del marito era ancora il suasso nella manica nella guerra contro il gobbo e funzionò. Goffredo acconsentì a restituirle i suoi beni insieme ad altri oggetti personali che aveva lasciato nel suo palazzo. I più preziosi fra questi erano l'amato scrigno d'avorio che le aveva donato Bonifacio e la statuina di Modesta. In cambio, Goffredo avrebbe dato a Matilde 6 mesi per visitare i suoi territori e sua madre prima di pretendere che tornasse come sua moglie. Con accettò le condizioni, sapendo benissimo che Matilde avrebbe trovato innumerevoli stratagemmi per evitare di far ritorno dal marito. Mantenne la furiosa lettera di Matilde in suo possesso. Era meglio non lasciare una minaccia di guerra nelle mani del nemico, perché all'occorrenza avrebbe potuto essere usata contro di lei. E poi c'era il problema di quella firma eretica. L'avrebbe restituita a Matilde. Forse, pensò, in futuro quella missiva sarebbe potuta tornare ancora utile. Con scortò l'arca e il suo sacro contenuto da Patrizio affinché la ispezionasse, quindi trascorse una notte a Orval. Con gli altri amanuensi calabresi verificò che le copie fossero complete, compresi i disegni, e che l'originale fosse intatto. Dopo che ognuno ebbe baciato con riverenza la copertina dorata e ornata di gemme, il libro rosso venne rimesso nell'arca e dato in custodia a Con delle 100 battaglie, che giurò che l'avrebbe protetto a prezzo della sua stessa vita. Il gigante celtico lodò Patrizio per il magnifico lavoro svolto mentre visitava i dintorni di Orval. Aveva davvero costruito un'abbazia d'oro, un luogo degno di ospitare la scrittura più sacra, la vera parola divina e le profezie della sua santa figlia. Gli archi della navata, così come erano stati disegnati dalla mano di Matilde, erano di un'altezza e di un'imponenza che non aveva mai visto prima. Svettavano verso il paradiso. I lavori di muratura erano tutti meticolosi e artisticamente magnifici. L'intera struttura era un capolavoro costruito dal potere dell'amore. Con rimase colpito soprattutto dall'enorme labirinto che si estendeva nel giardino e chiese il permesso di poterlo percorrere da solo. Dopo aver trascorso l'intera giornata con Con, Patrizio era non poco stupito dall'intima conoscenza che Con aveva dei contenuti del libro rosso. A quanto ne sapeva, il grosso Celta non era mai stato membro dell'ordine e Patrizio si domandò come facesse a conoscere così bene le loro tradizioni. Di sicuro non era stata Matilde a metterlo al corrente, perché non avrebbe mai violato i suoi voti di segretezza parlandone con chi non era fra gli iniziati. Adesso si chiedeva: Matilde sapeva che Con era in grado di citare lunghi passi del libro dell'amore, che sapeva anche esattamente come e perché percorrere il labirinto senza bisogno di alcun suggerimento? C'era un mistero su cui indagare, ma l'uomo in questione non si lasciava sfuggire nessun indizio riguardo alla sua storia. Patrizio pensò di mandare una lettera in codice a Matilde sull'argomento, ma c'era il rischio che il Celta conoscesse anche il Sator Rotas. Meglio non offenderlo, era chiaramente un alleato che si considerava il sacro difensore della loro preziosa attesa. Quest'uomo sarebbe morto per Matilde, senza un attimo di esitazione. Patrizio decise che Con era molto probabilmente uno degli eletti e che non spettava a lui impicciarsi di quello che sapeva e che non sapeva. Il tesoro dell'Ordine del Santo Sepolcro avrebbe viaggiato al sicuro sotto la spada di Con e quella di Matilde. Il Libro Rosso e l'Arca della Nuova Alleanza sarebbero tornati sani e salvi in Italia, luogo a cui appartenevano per ora. Esattamente 6 mesi dopo, Goffredo cominciò a inviare lettere a Mantova in cui pretendeva che la moglie tornasse a Verdun non più tardi del giugno 1072. Matilde lo ignorò. Le sue missive cominciarono a giungere più frequenti e più dolci nei toni, ma lei continuò a ignorarle. In capo a 8 mesi, Goffredo di Lorena si ritrovò a supplicare la moglie di acconsentire almeno a incontrarlo per discutere le sorti del loro matrimonio. Poiché lei si rifiutava persino di rispondergli, il gobbo marciò verso la Toscana per rivendicare i propri diritti di duca e per tenere corte a Mantova. Di nuovo implorò Matilde di riconciliarsi con lui, di sedere al suo fianco come duchessa e di governare l'Italia insieme. Matilde si limitò a trasferirsi nella sua roccaforte di Canossa per evitarlo. Beatrice fu lasciata a lenire le ferite del tormentato Goffredo, invocando la sua pazienza e il suo perdono per il rifiuto di Matilde. Una volta placatosi, Goffredo sarebbe diventato più benevolo e Beatrice era decisa a neutralizzare tutti i potenziali pericoli per l'eredità di Matilde. Spiegò in tono supplichevole che la figlia non era più la stessa da quando aveva perso la bambina e che il marito doveva solo darle un altro po' di tempo. La tattica funzionò per un poco, ma alla fine, sdegnato e offeso, il gobbo se ne tornò in Lorena in uno stato di profonda agitazione. Poco dopo riferì le sue sventure a Enrico IV, il quale fu felicissimo di accogliere la richiesta di Goffredo di essere l'unico governatore riconosciuto della Toscana in cambio della promessa di fedeltà e della potenza militare della provincia di Lorena. Enrico dichiarò guerra a Matilde per la violazione della legge salica che non concedeva alle donne alcun diritto di eredità e la privò di tutto. Con il sostegno del re, Goffredo fece un ulteriore passo contro Matilde, nominò il nipote Goffredo di Buglione suo unico erede del patrimonio della Lorena e della Toscana. Lei ignorò anche questo in modo esplicito, non rispondeva a nessuno padrone tranne che alla provvidenza ed era per grazia divina che possedeva le proprie terre, disprezzava Enrico ancor più di quanto disprezzasse Goffredo e aveva deciso da lungo tempo che nessuno dei due le avrebbe mai più rubato niente. Ai suoi occhi il possesso era la legge e lei possedeva la Toscana, la terra e la gente. Continuò a girare per il regno insieme alla madre, emettendo sentenze e tenendo consigli non solo nei suoi territori principali, ma anche nei borghi più piccoli. Era chiaramente vista come guida del suo popolo che la adorava. La sua fama di persona giusta e compassionevole si diffuse in tutta l'Italia e lei continuava a dare vita a progetti che davano sollievo ai bisognosi e ricostruiva quelle città e quei villaggi che erano stati devastati durante i conflitti per il potere. Finanziò piani per restaurare e abbellire i monasteri e le chiese per la gloria divina e il giovamento spirituale del suo gregge. Promosse la beneficenza da parte di monasteri e conventi dove ai poveri veniva dato da mangiare con regolarità. La sua base di Canossa fu chiamata la Nuova Roma e prosperò come fiorente centro commerciale e culturale. Fortificò e restaurò il monastero di San Benedetto Po nei pressi della sua dimora a Mantova, costruito da suo nonno in memoria della sua santa nonna. Aveva sviluppato una vera passione per l'architettura, passione che era cominciata con la ricostruzione di San Martino a Lucca e aveva raggiunto l'apice a Orval. Aveva un'acuta nostalgia di Orval, di Patrizio e di tutto ciò che avevano creato lì. Era l'unico motivo per cui rimpiangeva di aver abbandonato l'incubo del Nord. Di conseguenza, aveva iniziato a trasformare San Benedetto nell'Orval italiana e vi aveva portato membri dell'ordine per consolidare i propri studi del Libro Rosso. Il maestro viveva in pianta stabile nel quartier generale dell'ordine a Lucca e non era propenso a viaggiare, così Matilde non lo vedeva tanto spesso quanto avrebbe voluto. Tuttavia, Anselmo le faceva visita di frequente. Quando era in sede, il vescovo di Lucca trascorreva le sue giornate a studiare con Matilde e le notti con la sua diletta Isabella. La Toscana prosperò sotto il suo regno, come ai tempi di suo padre. Un astuto e carismatico giovane cavaliere di una nobile famiglia toscana legata all'ordine, Arduino della Paluda, era al comando delle sue guarnigioni e mise in atto una serie di strategie per eliminare la pirateria e rese la punizione per i furti così severa che nessuno commetteva più questo reato nei territori di Matilde. Fece in modo che venissero pagate tasse da mercanti stranieri in cambio della pace e della tranquillità riportate sulle vie degli scambi commerciali. Furono costruiti ponti per intensificare i viaggi, alcuni disegnati e progettati dalla stessa Matilde, e il commercio fiorì più di quando Bonifacio era in vita. La pace e la prosperità tornarono a regnare in Toscana. Sotto la contessa, che era risaputo, sedeva a tavola con i suoi vassalli più poveri e spezzava il pane con chiunque la invitasse a farlo. Quella era la sua gente e lei l'amava, amava tutte e tutti allo stesso modo, perché questo era l'insegnamento, sia nella scrittura canonica sia nel libro dell'amore. Ama il tuo prossimo come te stesso. E Matilde capiva che tutti i suoi sudditi e le suddite erano il prossimo, ognuno di loro. E insegnava questo comandamento attraverso l'esempio. Mai nessun signore feudale nella storia si era comportato in questo modo. Come guida in fase di maturazione, Matilde aveva sviluppato la propria strategia, intesa a preservare le sue segrete tradizioni spirituali. Non solo sceglieva consiglieri leali, forti e intelligenti, ma si assicurava anche che chiunque, nella sua intima cerchia, fosse una persona a cui voleva bene, si circondò di quelle anime che era sicura fossero la sua famiglia dello spirito, come la definiva il libro dell'amore. Avevano promesso molto tempo prima a loro stessi e al divino di essere lì in quel luogo e in quel momento. Il tempo ritorna. Il suo amico Arduino capitanava gli eserciti che mantenevano al sicuro il popolo toscano, mentre Con, che le era vicino più di un fratello, deteneva il comando della sua guardia personale. Il vescovo Anselmo di Lucca sosteneva l'anima della Toscana, promuovendo tutte le riforme dello zio, Papa Alessandro II, mentre in segreto proteggeva l'ordine e i suoi obiettivi. Isabella, la sua più fidata confidente, rimase la padrona del castello e Beatrice era il suo mentore sociale e politico nelle faccende di importanza pubblica. La grande preoccupazione di questa estesa famiglia feudale era tenere a bada Enrico e Goffredo. Erano diventati un governo toscano de facto, controllando essenzialmente i territori che si estendevano dalle Alpi fin quasi a Roma. Poi, nell'aprile del 1073, il loro amato alleato e capo, Papa Alessandro II, morì all'improvviso. Roma, aprile 1073. Dei sette leggendari colli di Roma, l'Esquilino era il più alto. Sotto il suo pendio occidentale c'erano sobborghi squallidi e sovraffollati. A est c'erano le ville dei cittadini illustri, consiglieri di Cesare. In mezzo si trovavano case che appartenevano ai nobili romani di medio rango e ai politici. Era in queste case private che il cristianesimo fioriva in segreto durante il primo secolo, quando cittadini importanti vennero convertiti addirittura da Pietro. All'epoca di Matilde, questi primi centri cristiani clandestini erano ormai stati riconosciuti come le chiese più antiche di Roma. La chiesa di San Pietro in Vincoli era una di queste. Era situata in cima alla ripida collina, un monumento sacro per i cristiani nel cuore della città eterna. Era rinomata per un'altra reliquia di grande rilevanza per i cristiani primitivi, reliquia che era stata immortalata nei Vangeli, negli Atti degli Apostoli, dove nel capitolo 12 Luca scriveva che Erode aveva imprigionato Pietro nel Mamertino dopo l'esecuzione dell'apostolo Giacomo il minore. Pietro era stato tenuto in ceppi, incatenato al muro di quel sotterraneo, stillante umidità finché non era avvenuto un miracolo, come specificato nel settimo versetto. L'angelo che aveva spezzato le catene, quindi, aveva condotto Pietro fuori dalla prigione verso la libertà, completando il miracolo. Le catene che avevano legato Pietro durante la prigionia erano state mandate a Costantinopoli per essere custodite come reliquie sacre e testimonianza del miracolo, e lì erano rimaste fino al V secolo. Quindi l'imperatrice Eudossia ne aveva inviata una metà alla figlia a Roma e l'altra metà al papa Leone I. Il pontefice aveva scelto quel luogo, già sede di una residenza cristiana in cui era noto che Pietro avesse celebrato molti battesimi segreti, come ubicazione per la grande chiesa che avrebbe costruito per custodire le catene. Sembrava un posto in cui potevano accadere eventi miracolosi. Fu lì che si tenne la messa funebre per il compianto Papa Alessandro II e fu lì che lo stesso giorno si verificò un episodio fuori dal comune. Una folla di ecclesiastici appassionati elesse in modo estemporaneo una nuova guida per la Chiesa, un uomo che non era neppure stato ordinato sacerdote quando fu scelto per ricoprire la più alta e santa carica di tutta la cristianità. Cominciò piano, quasi sottovoce, perché i vescovi che erano andati a piangere il loro pontefice mormoravano fra loro, volevano la forza sotto la tiara papale, un forte riformatore che avrebbe potuto continuare a tenere testa alla tirannia del re tedesco. Fra i tanti atti scandalosi, Enrico seguitava a praticare la simonia e aveva comprato un gran numero di diocesi per i suoi sostenitori più fedeli, nonostante le severe leggi emesse contro quella forma di corruzione. Ritrasformare la Chiesa in un'entità spirituale senza alcun legame con il sovrano temporale avrebbe richiesto una guida dotata di grande saggezza, esperienza e forza. Occorreva qualcuno che fosse spavaldo e intrepido, tanto da diventare sfacciato. I vescovi erano tutti d'accordo sul fatto che soltanto un uomo fra loro avesse il potenziale necessario per compiere quel destino, il Debrando di Soana. Nel pieno dei suoi 50 anni, Brando era assai più giovane di molti dei papi che lo avevano preceduto, il che gli dava un ulteriore vantaggio grazie alla sua figura forte e virile. Persino il suo aspetto fisico lo identificava come una guida energica e capace. Uno dei vescovi romani si alzò per primo e tenne un breve ma appassionato discorso sulla necessità di appoggiare Brando come nuovo pontefice. La marea si alzò in fretta e nel giro di pochi minuti l'intera comunità ripeteva in coro il suo nome, insistendo perché accettasse di essere eletto pontefice. In quel preciso momento si levò un coro di «Dio ha decretato il nuovo Papa!» prima in fondo alla chiesa e poi per tutte le strade di Roma. Il Debrando, che era estremamente popolare fra la gente della sua città, fu confermato in maniera schiacciante sia dai vescovi sia dal popolo come unico erede degno delle chiavi di Pietro. Nessuno sembrava ricordare che il Debrando di Soana non aveva mai preso i voti ecclesiastici, né che era stato appena eletto papa con una procedura illegale e desueta che violava il decreto elettorale che proprio lui aveva redatto e che era stato messo in pratica con Papa Nicolò II.